Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Signore lo accolga nella sua dimora della luce e della pace, e con queste parole che i fedeli udinesi hanno pregato per Papa Francesco nella messa di suffragio svoltasi ieri sera nella cattedrale di Udine, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Lamba. Oggi il Santo Padre sarà celebrato a Gorizia e a Trieste, domani la commemorazione a Pordenone. Papa Francesco in regione conosceva molto bene Monsignor Bruno Fabio Pighin, nativo di Zoppola, docente presso lo studio teologico del seminario diocesano di Pordenone, nominato di recente dallo stesso Santo Padre alla carica di consultore del Dicastero per la dottrina della fede per la riforma della curia, oltre che autore di diversi scritti in materia. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in partenza per il Giappone, dove rappresenterà la regione nello stand allestito per l'edizione 2025 dell'Expo, che si terrà a Osaka, in Giappone. 70 posti di lavoro offerti da 9 aziende del territorio regionale, dall'area del Manzanese, passando per Udine, Palmanova, fino a Gorizia, nel nuovo Recruiting Day promosso dalla regione in agenda per il 22 maggio a San Giovanni a Natisone, oggi a Udine, la presentazione ufficiale. Nei prossimi giorni saranno noti gli esiti della perizia sul macchinario che ha ucciso sul posto di lavoro a Maniago il 22enne Daniel Taffa. Continua intanto il dibattito sul tema della sicurezza sul lavoro. Per la vicinanza tra le recenti festività pasquali e il 25 aprile, alcune scuole della regione quest'anno rimangono chiuse, prolungando così il periodo di vacanza, ma alcuni istituti hanno predisposto un programma in grado di colmare la mancata frequenza alle lezioni con attività alternative. Le 12:32 minuti in questo istante, questi i nostri titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Maria Spezia, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 22 aprile. In primo piano ancora la scomparsa di Papa Francesco, morto ieri a 88 anni per ictus cerebrale, cui è seguito il coma e l'arresto cardiocircolatorio, risultato fatale. Messaggi di condoglianze continuano ad arrivare da tutto il mondo, mentre è stata fissata stamane la data dei funerali, che si terranno in forma solenne sabato alle 10 in Vaticano, alla presenza di numerosi leader politici mondiali, tra i quali lo stesso presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In Friuli Venezia Giulia, dopo la Santa Messa di suffragio tenutasi ieri sera in Duomo a Udine, oggi il Santo Padre sarà commemorato a Gorizia in cattedrale alle 20:30 e a Trieste alle 20 nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo. Domani in programma a Pordenone una celebrazione eucaristica che sarà officiata dal Vescovo alle 20:30 nel Duomo concattedrale di San Marco. Il Signore lo accolga nella sua dimora della luce e della pace. E con queste altre parole che i fedeli udinesi hanno pregato per Papa Francesco nella messa di suffragio della cattedrale di Udine, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Lamba. Un saluto particolare in una giornata non di precetto, una messa annunciata poche ore dopo la notizia della morte del pontefice, nel pieno dei festeggiamenti di Pasquetta, ma che ha visto i banchi della chiesa affollati con persone di tutte le età e all'ingresso l'immagine di Papa Francesco che accoglie tutti. Il colore indossato è, come vuole la liturgia, il bianco. Si usa durante l'ottava di Pasqua, la settimana che è cominciata domenica e che è dedicata alla gioia della festa. In questo caso si accompagna a un evento doloroso. Ma accanto c'è la lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 28, che racconta la scoperta della resurrezione e che suona come una coincidenza o un auspicio. Nell'arcidiocesi di Udine, messe per il Papa saranno celebrate ogni giorno fino alle esequie. Oggi Francesco sarà commemorato anche a Gorizia, in cattedrale alle 20:30 e a Trieste alle 20 nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo. Domani a Pordenone il Vescovo terrà una celebrazione eucaristica di suffragio alle 20:30 nel Duomo concattedrale di San Marco. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. È un nostro corregionale che conosceva molto bene il Papa, è Monsignor Bruno Fabio Pighin, nativo di Zoppola, docente presso lo studio teologico del seminario diocesano di Pordenone, nominato di recente dallo stesso Santo Padre alla carica di consultore del Dicastero per la dottrina della fede per la riforma della curia, oltre che autore di diversi scritti in materia. Sentiamo allora il suo ricordo personale di Jorge Maria Bergoglio. Papa Francesco mi ha onorato della sua stima, del suo affetto. Noi ci siamo conosciuti ancora negli anni 1990, quando tornava da Buenos Aires, ma soprattutto l'ultimo incontro con lui è stato il primo dicembre del 2024, quando emisi il giuramento pontificio del segreto pontificio, proprio perché volle nominarmi suo consultore per la durata di 5 anni. Consultore che vuol dire che devo occuparmi a suo favore per facilitare le sue decisioni nel campo del diritto penale della Chiesa, nel quale lui ha voluto fare molta pulizia, giustamente. Infatti io sono stato uno degli 8 redattori del nuovo diritto penale della Chiesa che lui ha promulgato nel 2021. Mi ha incardinato nel dicastero più importante, che è quello per la dottrina della fede, che si occupa appunto delle cause penali, ma anche dei problemi dottrinali, quali la bioetica, quali i problemi riguardo i sacramenti e altre cose. Anche recentemente sono stato consultato per desiderio del Papa, quindi i nostri rapporti sono stati, direi, piuttosto intensi, anche in relazione alla Cina. Quindi il Papa mi ha anche telefonato personalmente, oltre che incontrarlo di persona, mi ha telefonato personalmente per congratularsi per l'applicazione di un altro campo di riforma che lui ha voluto, quello del diritto matrimoniale, dei processi più rapidi per la nullità del matrimonio. Quindi diciamo che la sua dipartita, la sua morte è un momento di grande dolore, ma anche un momento di ringraziamento al Signore per quanto egli ha fatto per la Chiesa, per il mondo, e credo che resterà per moltissimi un Papa indimenticabile. Sentiamo ora un'altra testimonianza, quella dell'isontino Marco Girardo, direttore responsabile del quotidiano cattolico Avvenire, che il giorno dopo la morte del pontefice ci ha rilasciato questa intervista. Grazie Francesco, sincero e diretto il titolo d'apertura dell'Avvenire all'indomani della scomparsa di Papa Francesco. Due le parole chiave dell'editoriale del direttore di Avvenire Marco Girardo, nato e cresciuto a Ronchi dei Legionari, povertà e grandezza, il Papa sempre vicino agli ultimi, l'impegno per la pace e un nuovo modello di sviluppo. Il Papa è come se avesse voluto accompagnarci fino alla Pasqua, no? Fino al giorno di Pasqua, e poi il giorno dopo se n'è andato, ma la Pasqua l'ha fatta insieme a noi, ed essendo stato lui il Papa proprio dell'incontro, ma dell'incontro personale, lui ha desiderato incontrare, farsi incontrare personalmente. Questo significato di essere rimasto con noi fino alla Pasqua, che è il simbolo per la fede cristiana della resurrezione e quindi della speranza, ha fatto prevalere questa seconda sensazione, quindi non tanto la perdita quanto l'apertura sul futuro e l'eredità che ha lasciato indelebile Francesco nella Chiesa e nella società italiana e nel mondo intero. Da qui la decisione poi di fare nel giornale di oggi una prima pagina in cui semplicemente abbiamo voluto dire grazie a Francesco. Francesco sarà ricordato anche per essere stato il Papa dell'accoglienza e del dialogo fra culture diverse. Un messaggio importantissimo in una regione che è stata e che è crocevia e incrocio di popoli, di storia, di gente. Poi quest'anno, insomma, in cui si celebra anche a Gorizia e Nova Gorica, questa capitale europea della cultura improntata proprio al tema dello sconfinamento, del superamento dei confini, dell'unione, quindi il suo messaggio è stato di una potenza fortissima. Del resto lui ha improntato tutta la sua azione diplomatica nel senso del dialogo all'interno, diciamo, della Chiesa, all'esterno della Chiesa, tra le confessioni cristiane, ma anche tra le grandi religioni. Il suo fondamento in questo era un elemento della spiritualità ignaziana, essendo lui, diciamo, il primo Papa Gesù vita, peraltro, quello del concetto della reverenzia, del rispetto. Il suo dialogo era improntato sul concetto del rispetto per l'altro, e questo lo portava ad aprirsi anche ad un dialogo autentico con il diverso da sé e anche con le altre religioni. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E dopo questo inizio di giornale radio che è stato dedicato alla figura di Padre Francesco, cambiamo ora argomento. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è in partenza per il Giappone, dove rappresenterà la regione nello stand allestito in occasione dell'edizione 2025 dell'Expo che si terrà a Osaka, in Giappone appunto. presenti nella settimana dove, a causa di festività locali, è previsto maggiore afflusso. La regione parte per l'Expo di Osaka, Giappone, nella cosiddetta Golden Week. All'interno del Padiglione Italia, nei 100 metri quadri destinati alle regioni, il Friuli Venezia Giulia presenterà alcune delle proprie eccellenze culturali e non solo all'interno di un racconto: scarpez, mosaici, legno arredo, merletti, ma anche fumetti, proprio nella patria degli anime, grazie alla collaborazione con il Palazzo del Fumetto di Pordenone, un po' come portare la pizza a Napoli. Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli Venezia Giulia. Con le nostre caratteristiche, senza voler imitare ovviamente il manga o l'anime giapponese, però ci siamo voluto rivolgere con anche quel senso di rispetto verso Giappone, forse anche di comprensione reciproca, e abbiamo un po' rivoluzionato la comunicazione. Noi non presenteremo dei volantini d'altro, daremo un fumetto specifico adatto in italiano, giapponese e inglese, e anche le immagini saranno tutte incentrate con, diciamo, questa connessione fumetto Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia sarà presente all'Expo tra il 27 aprile e il 3 maggio, ma già venerdì, assieme alle altre regioni, parteciperà all'edizione fuori sede di Selecting Italy, dove il mondo delle imprese cerca di attrarre investitori e trovare collaborazione reciproca con aziende nipponiche. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.41, passiamo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso e variabile su pianure e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 17 gradi, a Gorizia 22, Udine 20, Pordenone 19 gradi, in area montana, Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 14, Sappada 13, Piancavallo 12 gradi e mezzo, Tarvisio 11 gradi e mezzo, in quota sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Monte Lossari 6 gradi e mezzo, sulla costa a Lignano 20 a grado 18 gradi e 5 decimi. E queste le previsioni dell'ARPA nella regione. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali sparsi sulla zona montana, specie orientale, e verso il confine con la Slovenia. Non è escluso che qualche rovescio temporale possa interessare l'Isontino e Trieste. Venti a regime di brezza, temperature massime in aumento. La cronaca: da poco prima della mezzanotte una ventina di vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati con diverse squadre per la ricerca di una donna di 40 anni, Maria Assunta De Giorgi, residente a Zoppola, che è uscita nel pomeriggio di ieri per fare una passeggiata, non ha fatto rientro a casa. Sul posto anche il gruppo dei cinofili, droni, l'elicottero del reparto volo di Venezia, carabinieri, eli soccorso e personale della protezione civile. Al momento della scomparsa la donna indossava pantaloni lunghi blu jeans, maglietta a collo alto color turchese, golfino di lana di colore blu con disegni natalizi e scarpe nere invernali. La donna inoltre non ha portato con sé documenti, portafoglio né telefono lasciati presso la propria abitazione. Chiunque abbia informazioni in merito alla sua scomparsa è pregato di contattare la polizia. 70 i posti di lavoro offerti da 9 aziende del territorio regionale, dall'area del Manzanese, passando per Udine, Palmanova, fino a Gorizia, nel nuovo Recruiting Day promosso dalla regione a San Giovanni al Natisone. Oggi a Udine la presentazione ufficiale. È il 20° Recruiting Day promosso quest'anno sul territorio dalla struttura Servizi alle Imprese della Direzione Centrale Lavoro della Regione. In agenda Villa De Brandis a San Giovanni al Natisone per il 22 maggio. Inizialmente era stato pensato per coinvolgere le imprese del legno arredo dell'area del Manzanese, ma viste le difficoltà del comparto si è deciso di allargarlo anche ad altri settori. 9 le imprese coinvolte, con sede sia in zona che nel resto della regione, da Udine fino a Gorizia, per 70 posti di lavoro. Si va da una realtà che opera nella ristorazione collettiva a una banca, 2 imprese meccaniche, una di componentistica, un'energy company, una società logistica, una lavanderia industriale e un'azienda attiva nella grande distribuzione. Sono alla ricerca di diversi profili nelle aree tecnica, produzione, servizi e impiegatizia. La presentazione ufficiale del Recruiting Day oggi a Udine ha aperto le candidature possibili sul sito della regione fino al 12 maggio. Quindi si procederà alle preselezioni dei candidati ritenuti più idonei, che saranno convocati il 22 maggio ai colloqui diretti con le imprese. C'è ancora grande difficoltà a trovare i profili più qualificati, sottolinea il responsabile dei servizi alle imprese Fratte, tracciando un primo bilancio dei 16 Recruiting Day già conclusi sui 24 in programma entro la metà dell'anno. 120 le aziende coinvolte per oltre 1.600 posti di lavoro ricercati e 4.200 candidature raccolte, per più della metà convocate a colloqui. Rispetto al passato, rimarca l'assessore regionale al lavoro Rosolen, le aziende fanno programmazione anche sul capitale umano, non più solo sulla produzione, e hanno compreso che queste sono occasioni importanti importanti per trovare i profili che cercano e anche per coprogettarne la formazione in ingresso assicurata dalla Regione. E intanto si è già al lavoro per il recruiting day più inedito annunciato stamane per il Cirque du Soleil, che per il suo mese di spettacoli in pianta stabile a Trieste per il Rossetti dal 13 giugno al 13 luglio ricerca 180 persone tra facchini, addetti all'allestimento, alla biglietteria, guardie, cuochi, aiuto cuochi e camerieri. La giornata di reclutamento sarà presentata giovedì nella sede della Regione a Trieste. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Nei prossimi giorni saranno noti gli esiti della perizia sul macchinario che ha ucciso sul posto di lavoro a Maniago il 22enne Daniel Tafa. E proprio la sicurezza sul lavoro è stato dedicato l'approfondimento della nostra trasmissione televisiva del mattino. Buongiorno Regione. 13.604 è il numero degli incidenti sul lavoro in Friuli Venezia Giulia per il 2024, quasi 100 in meno rispetto all'anno precedente. In calo anche quelli con esito mortale, che sono passati da 22 a 19. Sono i dati diffusi dall'INAIL, che evidenziano una tendenza che però nei primi mesi di quest'anno sembra aver già cambiato segno. A febbraio il totale degli infortuni è stato 1.239, in crescita rispetto ai 1.099 del 2024. Ad accertare le responsabilità nel caso di un infortunio è il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della SUGI, che ha come obiettivo anche la promozione della cultura della sicurezza. Il servizio è composto da professionisti con competenze sia nell'ambito sanitario che tecnico, dai medici agli ingegneri e tecnici di laboratorio. Il direttore Luigi Finotto. L'attività nostra è anche far sì che quella modalità di infortunio non si ripeta più e non accada più, e quindi è un elemento molto importante. Per quanto riguarda le malattie professionali, in una disamina fatta dal 2010 ad oggi, c'era una precedente disamina del 2014 che riguardava l'allora azienda triestina, l'allora azienda isontina, dove si riscontrava che oltre il 60% delle malattie denunciate era dovuta alla pregressa esposizione ad amianto. Ad oggi invece si vede che il numero di malattie professionali dovute alla pregressa esposizione ad amianto sostanzialmente è costante. Aumentano le altre malattie, che sono le malattie dovute principalmente all'apparato osteomuscolare sostanzialmente. Tornando invece alle malattie amianto correlate, di solito la media dovrebbe essere un caso su un milione, invece in Friuli Venezia Giulia? Differente per anno, abbiamo in media tra i 40 e i 50 casi di mesotelioma all'anno. Trieste, Vaciucchi, TGR Friuli Venezia Giulia. Un viaggio tra storie vere, dati concreti, strumenti utili e voci autorevoli. E online In viaggio nel lavoro, il nuovo podcast della Camera di Commercio di Pordenone Udine, pensato per accompagnare i giovani studenti, neodiplomati, neolaureati, nel percorso di orientamento verso il mondo del lavoro e dell'impresa. Il podcast si articola in 8 episodi, ciascuno dedicato a un aspetto chiave dell'orientamento professionale. Si inizia con un'introduzione al progetto e ai servizi camerali pensati per supportare l'incontro tra giovani e mondo produttivo, per poi addentrarsi nell'universo dei dati Excelsior e degli strumenti dedicati di Excelsior Orienta, che aiutano a leggere i fabbisogni occupazionali delle imprese e a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro. Anche il settore dell'agricoltura è alle prese con la politica dei dazi introdotta dall'amministrazione americana, e da un'indagine della Coldiretti emergono già i primi danni economici, in particolare al settore delle nostre eccellenze agroalimentari, per un settore che chiede sempre più urgentemente un intervento da parte dell'Unione Europea. Il servizio da Roma è di Raffaella Cosentino. Scongiurare guerre commerciali con gli Stati Uniti, che per noi sono il principale mercato agroalimentare al di fuori dell'Europa. È l'auspicio di tutte le associazioni agricole, da Confagricoltura a Coldiretti, che bene hanno accolto le iniziative del governo italiano in questo senso e gli spiragli a una possibile trattativa con l'Europa, emersi dopo l'incontro tra Trump e Meloni e poi con il vicepresidente degli Stati Uniti Vance in visita a Roma. I dazi sulle esportazioni, per il momento fissati al 10%, rappresentano infatti già un problema per i nostri produttori di olio, vino, formaggio, salumi e di tutte le altre nostre eccellenze agroalimentari, andando ad incidere sul fatturato con un calo stimato al 10%, mentre le esportazioni stanno subendo una flessione del 30%. Da uno studio della Coldiretti, le imprese nelle regioni stanno già subendo tutte un danno economico. Al primo posto la Toscana, 300 milioni di euro, seguita dalla Lombardia, 270, dall'Emilia Romagna, 250, dal Veneto, 200, dalla Campania, 180, 100 il Piemonte, 80 il Lazio, 50 il Trentino Alto Adige e poi a seguire Puglia, Friuli, Venezia, Giulia, Sicilia, Abruzzo e così via. Di fronte alla necessità di trovare nuovi sbocchi di mercato o eventualmente di riconvertire la produzione, le associazioni agricole chiedono un intervento dell'Unione Europea per supportare un mercato che solo in Italia nel 2024 ha raggiunto un valore record di 70 miliardi, di cui 8 solo di export. Dopo oltre 12.000 miglia e 46 giorni di navigazione dal porto di Littleton in Nuova Zelanda, ieri la rompighiaccio Laura Bassi è arrivata al porto di Trieste, completando così una missione di più di 2 mesi. La nave, infatti, ha concluso l'attività di ricerca nell'ambito della campagna oceanografica della 40ª spedizione scientifica in Antartide, finanziata dal Ministero di Università e Ricerca, nell'ambito del programma gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Coordinamento Scientifico e dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, per la gestione tecnica e scientifica della rompighiaccio. La nave nel corso della missione ha completato 2 rotazioni dalla Nuova Zelanda all'Antartide, circumnavigando il mare di Ross e raggiungendo la base italiana in Antartide Mario Zucchelli. Partita il 5 marzo dalla Nuova Zelanda, ha doppiato Capo Horn, fatto tappa a Milazzo ed Ancona e ora è a Trieste. La nave ha riportato in Italia i campioni di ghiaccio del progetto europeo Beyond Ipica Oldest Ice, che vede la partecipazione di 12 istituzioni scientifiche di 10 paesi europei. Tra le festività pasquali, il 25 aprile, scuole chiuse, bambini a casa, siamo andati in una fattoria didattica a Cordenons che accoglie bambini e bambine con attività in natura. Siamo in una fattoria didattica, azienda agricola di Cordenons, con l'imprenditrice agricola Marilina Ongaro. Qui ci sono una trentina di bambini, dai 2 ai 10-11 anni, e le scuole sono chiuse, però per fortuna ci sono realtà che offrono un servizio, una risposta. Che cosa fate fare a questi bimbi e a queste bimbe? In queste giornate di vacanza in fattoria accogliamo bambini per fare attività laboratorio nella natura, quindi relazione con gli animali, scoperta delle piante, delle foglie che troviamo nel prato, e quindi poi i bambini si abituano a relazionarsi con l'animale, quindi con il prossimo, ritrovano amici e si creano relazioni positive di condivisione. Bambini e bambine come rispondono a questo tipo di attività? Bambini e anche famiglie sono molto soddisfatte, rispondono in modo molto positivo, tanto che moltissimi di loro sono bambini che con abitudine ritornano in fattoria in questi momenti e proprio chiedono ai genitori quando si torna in fattoria, quando andiamo, perché sanno che trovano anche e si sentono un po' come a casa. Qual è l'esigenza delle famiglie in queste giornate di festa? Le famiglie e i genitori chiaramente lavorano e quindi per loro sapere di avere i loro figli in un posto sicuro dove stanno bene, imparano e si divertono è sicuramente qualcosa di rassicurante e di cui hanno bisogno. Cordenons, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Racconta la vicenda di Marco di Moruzzo, l'ultimo portabandiera dello Stato patriarcale di Aquileia e l'unico nobile a opporsi all'invasione di Venezia nel 1420, il film Marco, l'ultima bandiera. L'opera, diretta da Marco Fabbro, narra un avvenimento riemerso nel 1986 durante un restauro grazie a una lettera rinvenuta tra le pagine di un libro conservato in una biblioteca di Fagagna. Sullo schermo gli approfondimenti storici di Franco Cardini, tra i maggiori medievisti italiani. Appuntamento a Pordenone a Cinema Zero alle 21. Alla scoperta di Morricone è il titolo dello spettacolo dell'Ensemble Symphony Orchestra, che propone un viaggio nello sconfinato repertorio del compianto maestro. In scaletta brani celebri dalle colonne sonore di film del calibro di Mission, La leggenda del pianista sull'oceano, C'era una volta il West, Nuovo cinema paradiso, C'era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena. Direzione di Giacomo Loprieno, ad Azzano Decimo in Piazza Libertà alle 21.30. E alle 12.53 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Manuel Montalto e di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.